Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. New York. Il 1947 è iniziato da poco. Siamo al Versailles, ristorante francese molto rinomato, dove si può mangiare dell'ottimo foie gras servito con miele d'acero e ascoltare della buona musica dal vivo. Questa sera, sul palco, posto in fondo alla sala principale, ad allietare gli ospiti, c'è una cantante francese, sbarcata da qualche settimana nella Grande Mela per portare anche all'America un po' della sua musica. In Europa, e nella fattispecie in Francia, è già una celebrità. E come tutte le celebrità, ha vezzi che la contraddistinguono anche in negativo. Qui ancora non la conoscono bene e forse il nuovo continente non è pronto ad accogliere quella nota di malinconia che fin da Rue de Belleville a Parigi le si è avvinghiata alle corde vocali. Lei ci prova lo stesso, ci mette l'anima, come sempre. Non solo canta le sue canzoni, ma è le sue canzoni, le vive, come le ha insegnato il suo primo manager che l'ha tolta dalla strada. È Edith Piaf. Edith Piaf. Edith Giovanna Gassion all'anagrafe, soprannominata il passerotto, appunto Piaf, dal suo protettore artistico per via della struttura fisica esile che si contrappone alla sua potenza vocale. Ha capelli rossicci, lunghe dita affusolate che nasconde dietro alla schiena e occhi blu malva, occhi febbrili, queruli, gli stessi occhi che a causa di una malattia quando aveva appena 9 anni hanno smesso di vedere per un po'. Ha lo stesso viso di quando era bambina, lo stesso sguardo incredulo nei confronti del mondo che le si muove attorno. Quella sera, al Versailles, la sua aria è più smarrita del solito. Non è abituata a un audience che non parla la sua lingua e che peraltro nei giorni scorsi, in occasione di altre sue esibizioni, al Constitution Hall e alla Playhouse, non ha avuto parole dolci. La stampa l'ha maltrattata. Forse non l'ha capita. Tutti, a parte un critico musicale del New York Tribune, tale Virgil Thompson, che scrive un articolo di questo tono. Se l'America la lascia tornare in Francia, è la riprova che non ha capito nulla. All'America piacciono le belle donne, dirà lei. Ecco perché non li ha conquistati. Forse è vero, o semplicemente l'America non è pronta. Lo sarà solo molti anni più tardi. Ma la bellezza di Edith non è certamente nel corpo così fragile che sembra spezzarsi sotto la potenza della sua voce. La sua bellezza è in quello che riesce a trasmettere, in quella R graffiante, in quel misto di grandeur e decadenza francese che dagli anni 20 in poi le si sono appiccicate addosso. E a proposito di belle donne, l'America ha già accolto dall'Europa la più bella di tutte. Un'attrice che quella sera è al Versailles. Rapita dalla bellezza della cantante quella sera, quell'attrice europea vuole incontrarla. Ad ogni costo. La storia di Edith Piaf è densa. Cresce nel bordello di famiglia dove impara che l'amore è qualcosa di irraggiungibile, ma di meraviglioso, definitivo, totalizzante, e lo cercherà fino alla fine. Ferita da drammi familiari e dalle malattie che ne minano la costituzione fragile, si guadagna da vivere sui marciapiedi di fronte al 72 di Rue de Belleville cantando. È la Francia postbellica dei folli anni 20, quelli della mondanità e dell'arte. Ma sono anche i tragici anni 20, quelli della miseria, della prostituzione, segnati da violenza ed alcolismo. E Edith non è immune. A 18 anni ha una figlia col suo primo amore, Marcel Dupont. Ma come sua madre è più interessata a cantare che ad accudire la bambina, che muore a soli 2 anni. Un trauma nella vita di Edith, come ricorda la sua biografa e amica Marguerite Crosland. Penso che questo sia stato il motivo principale di tutta la sua infelicità. Perché avere una figlia piccola che muore in quel modo dopo che l'hai abbandonata e dopo che anche tu sei stata abbandonata a tua volta, non è proprio un bell'inizio. Per dimenticare le sventure di un'infanzia e di un'adolescenza vissute tra mille problemi, comincia a bere. La strada è la sua casa. È lì che la madre l'ha partorita ed è per strada che viene notata dal proprietario di un locale, vivendo così la sua seconda nascita. Comincia la sua carriera nei locali a luci rosse di Pigalle, ambiente certamente familiare per Edith. La sua voce è acerba e il suo carattere scostante. Questo non le permette di essere sempre amata all'interno del cabaret, finché una sera arriva Louis Leplé, quello che sarà il suo primo impresario e che le darà il nome di Mon Piaf, la bambina passerotto. Leplé capisce immediatamente le potenzialità di Edith e la lancia sul palco del Jernis, il cabaret degli Champs-Élysées. È un trionfo. Edith si trova ad essere famosa senza accorgersene. È l'uccellino di Parigi. Piace a tutti, agli intellettuali per il suo non conformismo. È irriverente, inquieta. La risata scoppia sonora senza preavviso. Piace al popolo perché è una di loro e ne canta le speranze e le delusioni, con questa sua predisposizione all'infelicità che la rende irresistibile. È un impasto di vita e cultura, di sentimenti popolari e passioni intellettuali. È lo specchio della Francia tra due guerre, quella dei bistrot à vin. Nel 1936, Le Play viene ucciso da un colpo di pistola alla tempia mentre è al telefono con Edith. Perché è questo il mondo dove vive la Mon Piaf, quello dove si ammazza per poco, per soldi, per ripicca o per gelosia. Il mondo dei ladri e degli ubriaconi. Le indagini sul delitto la sfiorano e viene interrogata per giorni. Questa è una prima battuta d'arresto per la sua carriera che solo un paio d'anni più tardi riparte sotto l'egida di un nuovo protettore artistico che sarà anche il suo amante, Raymond Asseaux. Asseaux attuerà la sua trasformazione definitiva da cantante ad interprete. Le parlerà del blues e del jazz, cercando di addolcire quella forza nella sua voce per incanalarla nel bel canto. Con Asseaux si passa dai caffè ai teatri. Siamo alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni della guerra sono gli anni della Piaf. In quegli stessi anni in America, nei club di Harlem, si esibisce Billie Holiday, classe 1915, come la nostra protagonista. La prima cantante nera ad esibirsi con musicisti bianchi, superando qualsiasi barriera razziale. La solitudine di queste grandi della musica, che hanno l'anima nella voce, è la stessa di qua e al di là dell'Atlantico. La vita le bastona e loro sembrano essere sempre pronte a rialzarsi. In my solitude, you haunt me. With revelries of days gone. No one could be so sad. With bloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. Vive e lavora a Parigi, quella dell'invasione tedesca, della sconfitta, del collaborazionismo. Edith non si schiera, ma canta ai galà per i prigionieri, per la Croce Rossa, nei musical e cabaret per gli ufficiali tedeschi. La Piaf deve cantare per vivere. Quindi non fa distinzioni fra nazionalità e nazionalismi. Non è tradimento o amore per Hitler, ma è la vita, con le sue debolezze e i suoi compromessi. La cosa invece è diversa per la persona che incontrerà quella sera al Versailles di New York e che le cambierà la vita. Quella stessa persona che se ne va dalla Germania proprio per allontanarsi dal nazismo che la vuole come icona. Sono gli anni in cui Edith incontra il poeta Jean Cocteau, che scrive per lei e di lei. Quando si incontrano, lei ha 25 anni e quell'aria smarrita. Lui invece ne ha circa 50 e una grande ammirazione per la sua arte. Vicini nella vita e anche nella morte. L'elogio funebre scritto per la scomparsa della cantante francese lo scrive proprio lui e mentre si appresta a leggerlo alla radio viene stroncato da un attacco di cuore. Se non c'è più Madame Piaf che canta, resta solo la pioggia che cade, il vento che fischia, la luna che si oscura. Sono molti gli artisti che si affiancano alla Piaf e che le scrivono canzoni o con i quali ha anche relazioni sentimentali. Amica, amante capricciosa e pigmalione di giovani artisti come Charles Aznavour e un giovanissimo Yves Montand, con il quale si esibisce al Moulin Rouge insegnandogli come vestire e come muoversi, trasformandolo così in una vera star. Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, cette petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh, elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon. Spesso lei lasciava gli uomini per paura di essere lasciata. Non perché perdeva interesse, ma perché era spaventata. Chi parla è Georges Moustaki, un compositore, uno dei tanti uomini che le sono stati vicini sia sentimentalmente che professionalmente e che ha subito lo stesso trattamento degli altri, ma che importa. Starle vicino vuol dire respirare un po' della sua passione. Edith non si ferma mai. La musica è l'aria che respira. In ogni frase cerca l'incipit per una nuova canzone. Le persone che le stanno intorno sono appigli, sono ancore, sono lidi dove approdare quando le cose non vanno bene. Ma il vero porto sicuro deve ancora arrivare. Bulimia delle passioni, quella di Edith. La vita le ha insegnato che l'amore c'è, ma ci sono anche le delusioni. La sua esistenza è un'altalena. Quando cade si rialza per poi cadere di nuovo. come quando in una Parigi liberata nel 1944 si siede al tavolino di un bar per respirare quell'aria di speranza e di rinascita, ordina un bicchiere di vino e comincia a scrivere la sua canzone più famosa e stranamente ottimista. Quella sera al Versailles, poco prima di intonare quella canzone, stringe nella mano destra il crocifisso che porta sempre al collo e chiude gli occhi. Rivede tutto. Vede la sua unica figlia, rivede le plaie, il suo agente e una per una le sue delusioni in amore. Quella però è la canzone manifesto del ritorno alla vita. Lei vuole solo cantare tutta l'infelicità che sente dentro per cercare di disintegrarla con la potenza della sua voce, per uscire dalle tenebre della disperazione e vedere finalmente la vita in rosa, anche se la sua vita e il suo amore non saranno mai in rosa, come nella leggendaria canzone. Marlene. Buonasera. Scusate, sono venuta solo per dire una parola. È da molto tempo che non vedo Parigi. Ma questa sera, mentre lei cantava, Edith, io ero là a Parigi, nelle sue strade, sotto il suo cielo. La sua voce è come l'anima di Parigi. Lei mi ha fatto viaggiare. Lei mi ha fatto piangere. Grazie con tutto il cuore, Edith. Grazie. Al Versailles, una donna non perde l'occasione per fare i suoi complimenti alla Piaf alla fine della sua esibizione. Ha un tailleur scuro con una cintura sottile sulla giacca che le segna il giro vita. Ha capelli lucidi, biondi, che formano onde dorate sul lato destro del suo viso. Tiene nella mano sinistra una pochette e con l'altra stringe la mano da lucertola delle pietre, come l'ha definita Jean Cocteau, la mano di Edith. Non le sembra vero di avere l'occasione per parlare con chi l'ha riportata là sul lungo Senna per un po', lei che ama Parigi e che vive lontano dall'Europa da tempo. La bellezza di quella donna è da capogiro. La stessa Edith si sente sopraffatta dai complimenti e dalla perfezione di quel corpo, ma la perfezione è anche quella della sua performance, delle sue corde vocali che nulla hanno da invidiare ai lineamenti della persona che ha di fronte a sé quella sera. Edith ancora non ci crede. Prende posto al tavolo dove ci sono i suoi amici e il suo impresario, beve champagne e mangia quel cibo che la fa sentire a casa. Dopo i complimenti della sua ospite, tutto al Versailles le sembra perfetto. Le sembra che l'America sia pronta a comprenderla. Le pare di vedere quella vita in rosa che ha appena cantato sul palco. Ancora non sa per cosa, ma sente che quell'incontro non si fermerà lì. Le loro sono bellezze di esseri superiori, dove anima e corpo si fondono per comunicare oltre le parole. Peccato che ad immortalare quell'incontro non ci fosse l'invenzione di Edwin Land, che il 21 febbraio di quello stesso anno mostra in pubblico per la prima volta la macchina fotografica istantanea Polaroid. Edith Piaf ha incontrato la bellezza e tra poco scopriremo il suo nome. This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. Is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, pictures of me, remind us all of what we used to be. There is a drug that cures it all. Between us. Oggi Destini Incrociati è a New York, per l'esattezza al Versailles, ristorante francese molto rinomato, dove si è appena esibita una delle nostre due protagoniste, è la cantante francese Edith Piaf. Alla fine della sua esibizione, una bellissima signora bionda in tailleur grigio si avvicina al tavolo della cantante per farle i suoi più sinceri complimenti. È un'attrice anch'essa europea. Il suo nome è Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. Marie Magdalene Dietrich nasce il 27 dicembre del 1901 a Schöneberg, oggi un quartiere di Berlino. Arriva in America con una carriera d'attrice già avviata, ma è certamente il nuovo continente a consacrarla all'icona del cinema del Novecento. È il 1929, il momento della svolta. Ad ottobre di quell'anno firma il contratto per interpretare il primo film sonoro della storia del cinema tedesco. Film che le dà fama internazionale e quell'appellativo così azzeccato preso dal titolo Angelo Azzurro, tratto da un romanzo di Heinrich Mann, fratello del più famoso Thomas. La regia è di Josef von Sternberg, regista che la seguirà per molti anni e al quale si deve parte della costruzione del suo personaggio. È qui che Marlene sfodera subito la sua perversa sensualità, che la contraddistinguerà poi per tutta la sua carriera, nonché una professionalità indiscussa, cantando in giarrettiera e calze a rete Lola Lola. Questa è la canzone del primo film che ho fatto e di cui vi ho parlato prima, intitolato L'Angelo Azzurro. No, non questa, l'altro. Come lo sapete? È Lola. They call me Naughty Lola. Nobody is a skeleton. At home I feel a Lola. L'indomani della prima dell'Angelo Azzurro, la stampa berlinese parla della Dietrich come di una star. Ma lei è già sul transatlantico Queen Mary verso l'America, direzione Hollywood. Il 29 gennaio del 1930, infatti, la Paramount le telefona per offrirle un contratto settennale con uno stipendio iniziale di $500 e aumenti vertiginosi per gli anni a venire. Marlene non ci pensa due volte. È anche l'occasione per lasciare la Germania, dove sta nascendo il nazismo. Nel viaggio che la porta via dalla Germania, farà l'incontro con Travis Benton, il costumista dei suoi prossimi film e delle sue apparizioni in pubblico. Proprio durante quel viaggio viene scattata da von Sternberg la famosissima foto di lei vestita da Yachtman, foto che verrà distribuita dalla Paramount con la didascalia «La donna che anche le donne possono adorare». Nessuna donna all'epoca indossava abiti maschili, a meno di non voler sembrare androgina. Per Marlene quell'ambivalenza diventa il suo punto di forza. Il primo anno sono andata da sola. Non ho portato con me mia figlia, perché non sapevo se mi sarebbe piaciuto rimanere. Perché avevo un contratto che diceva che se non mi fosse piaciuta l'America, sarei potuta tornare indietro dopo un anno. Dopo quel periodo però ho deciso che era la cosa migliore portarla e l'ho fatta venire da me. Una figlia non è quello che la Paramount vuole, perché l'immagine di femme fatale può cozzare con quella di madre, ma alla fine tutto torna a suo favore. Il primo film americano è Marocco, dove canta due canzoni e ottiene la nomination all'Oscar come migliore attrice. Non vincerà la statuetta, ma Marocco rimane nella storia per la sua performance canora in abiti maschili in cui dà un bacio a una donna del pubblico. Il primo bacio omosessuale della storia del cinema. A proposito di ambiguità, c'è un'altra diva dell'epoca alla quale è stata subito messa in concorrenza, ed è la divina Greta Garbo, la diva scandinava della MGM, con la quale avrà una rivalità dentro e fuori dal set. Sulla rivalità Dietrich Garbo, le compagnie di produzione puntano molto. È da poco arrivato il sonoro, e lo slogan che accompagna l'uscita del primo film della MGM recita «La Garbo parla». In tutta risposta, la Paramount titola «La Dietrich parla e canta». Le abilità canore della Dietrich, infatti, le danno una marcia in più. Nel 1939 Marlene ottiene finalmente la cittadinanza americana. Viene bollata da Hitler come la grande traditrice. Sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, dove compie la sua scelta. Si arruola nell'esercito americano per sostenere i militari impegnati in Africa e in Italia. Vive come un soldato e alla sera tiene spettacoli per le truppe. Ha inizio il mito di Lili Marlene, la canzone manifesto dell'antinazismo. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. Anche per Marlene, così come per Edie, l'amore è tutto. All'epoca del Versailles, Marlene si innamora di Jean Gabin sul set del film Turbine d'amore. Marlene passa molto tempo a Parigi per stargli vicino. Jean però è sposato e non si decide a lasciare la famiglia. Marlene passa sotto i balconi di casa Gabin, dove intravede le sagome della moglie e dei figli e piange come una bambina. Non può avere l'uomo che ama, perciò torna in America. Quando al Versailles sente Edie portare un po' di Parigi a New York, si emoziona per quel fragile passerotto che canta l'amore. Dopo quella sera, ha un motivo in più per tornare in Francia. Anche per Marlene, la vita sembra cambiare. Ho un amore molto speciale per la Francia. Nessuno può spiegarle, nemmeno io. Ho sempre amato la lingua francese e il mio cuore è sempre stato per metà in Francia. Durante la guerra, che eravamo nemici, ero disperata perché non me lo potevo spiegare. Gabin è solo uno dei tanti amori, sia maschili che femminili, dell'Angelo Azzurro. Tra le donne c'è l'attrice francese Claudette Colbert, la miliardaria americana Jo Casters, l'attricetta Dolores Del Rio, che si presenta alle feste vestita da sposa, mentre Marlene è in frac, e la sceneggiatrice cinematografica di origine spagnola Mercedes de Acosta, che per la Dietrich pianta Greta Garbo, di cui è stata compagna per anni. Numerose anche le frequentazioni maschili, a partire dal suo regista preferito, von Sternberg, e poi Gary Cooper, John Wayne, lo scrittore Ernest Hemingway, Joe Kennedy, padre del futuro presidente, e anche Burt Bacharach, musicista di 30 anni più giovane. L'amore arriva quando meno te lo aspetti, questo la diva lo sa. On a hot city day, when your white shirt turns to gray, that's when she'll arrive. When you look how you feel, someone steps upon your heel, that's when she will come. Listen now, I'm not saying that there will be violence, but don't be surprised if they appear. Playing in some doorway, still I can't believe that this is happening. Such unlikely lovers. Though no one seems to notice as they hurry by. Ask me what I'm thinking and I won't deny it. Can you believe it's happening? There were no magic spells. You can keep the flowers and bells. They just don't seem right. Can it actually be me and you and you and me? But we're like day and night. Listen now, I'm not saying that there will be violence, but don't be surprised if they appear. Playing in some doorway, still I can't believe that this is hanging. We're such unlikely lovers. No, no one seems to notice as they hurry by. Ask me what I'm feeling and I won't deny it. Marlene va a sentire Dee un'altra volta nelle sue esibizioni a New York. E questa volta la raggiunge in camerino per poter scambiare due chiacchiere in privato. In mezzo ai complimenti mescola con il suo fascino austero anche una dichiarazione. Ed è lusingata, lei che è circondata di persone, che ha molti uomini e collaboratori, ma no, non può accettare quel sentimento. Nasce un'amicizia. Nel 1948 arriva per Eddie il grande amore della vita, quello di cui ha cantato tanto. Marcel Cerdan. It's January 26, 1948. Marcel Cerdan takes on tough Giovanni Manca in Paris. Marcel Cerdan è un pugile di origine algerina, campione del mondo dei pesi medi. È già una celebrità quando incontra Eddie, ed Eddie ne rimane subito stregata. Cerdan è sposato, ma alla Piaf non interessa. Quando arriva l'amore vero, si può sorvolare su certe cose. Quando non sei mai stata di nessuno, vuoi esserlo a tutti i costi. È il suo periodo più rosa. Le disavventure sembrano dimenticate, sono lontane le disperazioni. Ogni occasione tra un incontro di boxe e l'altro è buona per stare insieme. I due si amano davvero. Una notte, mentre è in volo per raggiungerla negli Stati Uniti, dove Eddie ha una nuova tournée, il suo aereo si schianta al largo delle Azzorre a causa del maltempo e Marcel perde la vita. Eddie apprende la notizia poco prima di esibirsi sul palco. Canterà lo stesso, dedicando lo show all'amore della sua vita, con quello strazio nel cuore che una volta di più la sta mettendo alla prova. Cominciano periodi bui, è sempre più stanca, beve molto, prende medicine. Nascono i versi di Hymn l'amour. Io me ne fotto del mondo intero. Quando l'amore inonda le mie mattine, che mi importa dei problemi? Amore mio, perché tu mi ami. Il tema è sempre lo stesso, l'amore, solo l'amore. La vita dell'artista è sempre stata legata alla sua vita privata. Chi le sta vicino comincia a preoccuparsi per lei. La sua vita dissipata e il suo esile corpo non possono sopravvivere. Sviene sul palcoscenico, non riesce a portare a termine il lavoro. L'amica Marlene le viene in soccorso, con la sua determinazione e il suo senso del dovere, cerca di spronarla a rimettersi in piedi. Io ho sempre avuto un forte senso del dovere. Dovere verso la scuola, dovere verso tutti, dovere verso il mondo, dovere verso i principi per cui si vive. E il principio per cui vive Eddie sono l'amore e la musica. Marlene glielo ricorda. Dopo Cerdan, gli uomini continuano ad arrivare e ad andare. Sono amici, colleghi, protettori artistici. L'amore è la sua salvezza. Lei può innamorarsi ancora e ancora, anche se nulla sarà come Marcel. Nel 1952, il cantante francese Jacques Pille le fa una proposta di matrimonio e lei accetta. La vita riparte, o almeno sembra. All'età di 36 anni, Eddie si sposa. Dopo una prima cerimonia civile in Francia, i due si sposano a New York il 20 settembre del 1952 e fanno il rinfresco al Versailles, il ristorante dove le nostre due protagoniste si sono incontrate. Marlene è la testimone di nozze. Il suo è un amore solitario che vive della felicità di Eddie. La sposa ha un vestito lilla e uno splendido cappellino dello stesso colore che le fa risaltare i capelli ricci e rossi. Marlene ha un tailleur scuro e un cappellino bianco e nero portato sui suoi lucidissimi capelli biondi. Passeggiano per le strade di New York, Jacques, Eddie e Marlene. Sono loro tre, i due novelli sposi e colei che ha voluto fortemente che la vita di Eddie ripartisse. È una giornata di fine estate piena di luce e sole. Tutto sembra di nuovo risplendere e il passerotto deve ringraziare il suo angelo azzurro. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return. turn for grace. It's a beautiful. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati è al Versailles di New York, dove nasce l'amicizia indissolubile fra due donne artiste europee, Marlene Dietrich ed Edith Piaf. Il loro incontro in occasione di un concerto della Piaf segna la svolta per la cantante francese. Mi sono disintossicata. La morfina mi serviva per non sentire il dolore. Adesso sto abbastanza bene. Mi hanno detto di riposare, ma voglio tornare a cantare. Edith Piaf sta male. Dopo la morte del suo grande amore Marcel Cerdan, la sua vita è diversa. L'amicizia con Marlene Dietrich è arrivata ad alleviare le sue ferite. Primo fra tutti, l'ha portata a credere di nuovo all'amore. Nel 1952, infatti, Edith si sposa con Jacques Pille e Marlene è la sua testimone di nozze. Peccato che nel maggio del 1957 arrivi il divorzio. L'anno successivo al divorzio arriva il giovane chitarrista e compositore Georges Moustaki. Ritorna la sua voglia di circondarsi di giovani talenti e di misurarsi con la musica. Quando ero con lei come amico, compositore o amante, ero stupito della sua creatività. Era molto stimolante per me. Dopo qualche mese avevo già composto alcune canzoni su sua indicazione. Era molto emozionante per me scrivere per lei. La canzone più famosa nata dal loro incontro è Milord, che racconta la storia di una prostituta. L'origine della canzone Milord è partita da lei, da una sola parola che lei ha pronunciato, perché lei aveva l'intuizione per le parole. Così mi ha chiesto di scrivere la sua canzone. Aveva avuto sempre storie tragiche. Da lì nascevano le sue canzoni più belle. A 42 anni, Edith non è mai stata così produttiva. Sforna canzoni, tiene concerti. La vicinanza di Marlene è benefica, terapeutica. Crede di nuovo nella vita e soprattutto nel dovere che ha nei confronti del suo lavoro, finché il destino non le mette di nuovo di fronte una battuta d'arresto. Mentre stanno andando all'aeroporto di Orly di Parigi, una notte di pioggia, Edith e Moustaki hanno un incidente d'auto. Eravamo su una strada tortuosa e buia. Pioveva a dirotto e mi ritrovai davanti a un masso. Lo vidi, ma era troppo tardi. Ho frenato, ma la strada era scivolosa e siamo andati a sbattere contro la roccia. Tutto è successo in un secondo. Edith è stata sbalzata fuori dalla macchina, mentre io sono rimasto incastrato nel posto di guida. La Piaf ha una commozione cerebrale e niente ossa rotte. È in ospedale, ma deve tornare a lavorare al più presto, perché solo una settimana più tardi ha un concerto a New York. Lei ci prova, come sempre, ma le cose precipitano. Il 20 febbraio del 1959 sviene sul palco. La Piaf è malata ed è tossicodipendente. Edith era molto dipendente dall'alcol. Nonostante abbia provato varie volte a smettere, non ce l'ha mai fatta. Era molto triste e consapevole della sua dipendenza. La salute precaria la costringe a una rigida tabella di marcia. Non può più essere indulgente con se stessa, si deve dare delle priorità. Anche in questo caso interviene l'amica Dietrich con i suoi consigli sul dovere e il rigore. Se devo fare un lavoro, lo faccio. Se accetto un lavoro, lo devo fare bene. La Piaf ascolta solo l'amica. Nel frattempo anche la diva ha lasciato il set per darsi al canto e con l'amica francese condivide quest'ansia da palcoscenico, da performance dal vivo. Nel 1959 arriva finalmente il successo americano. New York la celebra con 7 minuti di standing ovation. Eccolo lì il successo e l'accoglienza dell'America. Quell'accoglienza che alla diva tedesca era stata riservata fin dall'inizio. Con un po' di fatica e determinazione, anche Edith ce l'ha fatta. Con il supporto di Marlene, sempre, ovunque, in ogni modo. Put your head on my shoulder. Mine, dear, won't you? E la Piaf ricomincia, senza rimpianti. Si ricorda della forza che le ha fatto trovare l'amica Dietrich quando dopo la morte di Cerdan l'ha spinta a sposarsi e a credere ancora all'amore. Così, il 9 ottobre del 62 ci riprova. Si trova a fare nuovamente il grande passo con Theo Lamboukas, un giovane cantante greco che la seguirà sino ai suoi ultimi giorni. Potrebbe essere un figlio, ma lei è felice. Lo aiuta nella carriera, mentre lui le dà una mano con l'organizzazione dei suoi impegni. Sembra di nuovo tornare tutto a posto. Cantare e amare è tutto quello che serve. Me l'hanno presentato una sera e ho pensato com'è carino questo ragazzo. Poi lui mi dice che vuole cantare, cioè che fa il cantante. E io rimango subito affascinata. Come si può non esserlo, visto che è giovane e carino. Così decido di seguirlo nella sua carriera. Però prima gli dico che deve cambiare il suo nome. Anche lui deve avere un nome d'arte. E così troviamo Sarapou al posto di Lamboukas. Ma anche questa volta il destino è implacabile. Il 10 aprile del 1963 viene portata d'urgenza in ospedale per un'emorragia. Al suo ritorno a casa, Theo la porta nel sud della Francia per farla riposare. Le fanno visita tutti i vecchi amici, compresa lei, Marlene. Ma ormai non c'è più nulla da fare. Muore l'11 ottobre di quello stesso anno e il 14 ottobre 40.000 persone si accalcano al cimitero parigino per dare l'ultimo saluto alla Mon Piaf. Mancherà alla Francia, mancherà al mondo intero. Il suo astro ha brillato troppo poco. Nel 1982 l'astronoma sovietica Ludmila Karachina scopre un pianeta e lo chiama Edith Piaf. E Marlene? Marlene prosegue la sua carriera di cantante, da sola. Sul palco sempre una coppa di champagne ad attenderla. L'ultima apparizione in pubblico la fa in un concerto a Sydney del 1975. E l'ultimo film è Gigolò, recitato accanto all'amico David Bowie. Muore a Parigi il 9 maggio del 1992. La sua amata Parigi, con tutte le storie da ricordare e dimenticare. Champagne? Dom Perignon, my favorite. Dancing, music, champagne. The best way to forget until you find something you want to remember. E chi può dimenticare l'incredibile bellezza e lo stile della donna che persino le donne adorano? Anche Freddie Mercury, nel 1974, per la copertina dell'album Queen Second, si ispirerà ad una sua foto. Le fotografie usate per questo album sono probabilmente tra le più celebri che ritraggono la band. Ma questa è un'altra storia. My life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart away. Oh, my heart is tired out. My knees and eyes fade away. Till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody. Every day, I try, and I try, and I try.